Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Bello ieri, eh? Bellissimo. Ieri sera bellissimo. Sono stanchi, però Tito, siamo qui. Tito, è bello anche per te, Tito, è stato. Dai, su, ecco. Non sei stato tanto protagonista, sai, ma insomma. Tito, anche lui è di quelli che insegnano a leggere, quei cani, certo. Che insegnano a leggere. Tito, tu insegni a leggere? Ma no. Tito. Sì, insegnano a leggere, ma i cani. Ma perché? Ci sono davvero i cani che sono addestrati a insegnare a leggere? Cioè, sono addestrati non a leggere, ma che insegnano a leggere ad altri cani? No, no, non ad altri cani, ai bambini della scuola. Ma cosa dici? Sì, sì, sì, ci sono davvero cani addestrati a insegnare a leggere. Cioè, ci sono certi professori che sono dei cani. Anche, anche. Per ora però sono solo in America. Allora, nell'ambito di un programma chiamato Reading Education Assistance Dogs, c'è questa cosa dei cani che insegnano a leggere. Lì va forte da 12 anni e quindi prima o poi arriverà anche qua in Italia. Sicuro. Comunque non è che i cani insegnano a leggere tecnicamente. Il cane è presente alle lezioni vicino ai bambini e quando i bambini devono leggere, sbagliano, sono un po' insicuri, il cane è incaricato di dar loro una leccatina. Ma cosa ma mi prendi in giro, Drago? Ti giuro, tutto vero. I cani svolgono il ruolo di assistenti psicologici, cioè servono a incoraggiare il bambino che sbaglia. Ah, non è come Tito che abbaia quando... No, il contrario. Oppure incoraggiano il bambino a sbagliare. Questo è ancora tutto da vedere. Comunque qua in Italia, con tutti gli esuberi che ci sono tra gli insegnanti di sostegno, cosa? Magari è la volta buona che la bambina Gelvini taglia i precari e assume dei cani, così aumentano le cifre delle assunzioni a tempo indeterminato e i cani costano meno di sicuro. Due scatolette, una carezzina e via. Vabbè, sì, Tito, anche la pipì nel parchetto, sì, sì. E restiamo sui banchi di scuola, perché oggi parliamo anche di quelli che invece di studiare copiano. Vabbè, ma a scuola è obbligatorio copiare. Vabbè, questo è il parere dei bambini, K. È chiaro che invece, ragionando da adulti, copiare è deleterio. Visto cosa è successo in Germania al ministro Gutenberg, lui si è dimesso perché aveva copiato la sua tesi di dottorato. Vabbè, cioè... ma Gutenberg è una fotocopiatrice, già nel cognome. Questo è molto divertente. Pensa che qui in Italia hanno fatto un sondaggio proprio sul copiare e si è visto che la gente copia dappertutto, dalle scuole medie all'università e anche ai concorsi pubblici. Vabbè, ma che scoperta! Ci voleva il sondaggio. Sì, però la cosa è preoccupante perché, ad esempio, negli Stati Uniti copiare fuori discussione, i ragazzi non copiano. Perché? Indovina, perché là i bambini sono responsabilizzati. Cioè? Vedi, non sai nemmeno cosa vuol dire. No, era ironico, Drago, sì. Come per dire o sei un bambino o hai delle responsabilità. Sono due cose che non stanno bene insieme, sì, è un ossimoro. Ho capito, ma se sei a scuola è perché serve a te imparare quello che ti insegnano. Se copi tutto non impari, sono nozioni abbastanza elementari che non dovrei nemmeno star qui a spiegarti. Sì, vabbè. Eppure in Italia si copia senza sensi di colpa. Ormai i professori non sanno più come arginare il fenomeno e si arrendono, anche perché adesso non è che si usano più i foglietti, ma gli smartphone. Vabbè, ma dà più nell'occhio uno smartphone che un foglietto. No, ma lo smartphone contiene i dati di 10.000 foglietti. Ho capito, ma se io sono un professore, ti vedo che armeggi col telefonino, ti ritiro compito e telefonino. Lo so, ma cosa si vuoi vede? Che ti dica? È tutto scritto nel libro del bambino Marcello Dei, Ragazzi si copia. Questo bambino si è buttato nell'argomento capofitto e dice che adesso per copiare si usa lo smartphone. Io non so, come una volta si nascondevano i foglietti, adesso ci saranno le astuzie. Ma, scusa, per imboscare lo smartphone. Ma capito? Un foglietto te lo infili dove vuoi, no? Sì, quasi, sì. Drago, dove vuoi? Dipende, è uno smartphone? No, non puoi. Quello, cioè, no, quello non volendo anche quello, però non si può. Sì, sì, se tu lo fai vibrare. Scusa, un casino. Non so, lo puoi mettere in mezzo a un panino. Sì. Tipo, no? Ma poi cosa fai? Apri il panino e guardi dentro. Cioè, il professore si accorge. Ma vabbè, cosa fa quello lì? Ma basta, lasciamo perdere lo smartphone. Concentriamoci sullo spregevole atto del copiare. Scusa. Vuoi forse dirmi che tu non hai mai copiato un compito, che ne so, di matematica? Figurati, di matematica. Non hai mai copiato matematica? Matematica. Vuoi forse ergerti a logico matematico? No, vabbè, io da piccolo copiavo ma non capivo. Infatti. E quindi? Adesso che capisco cerco di spiegare ai bambini che è sempre meglio fare di testa propria. Perché poi coi bambini, io lo so, voi cosa continuate così tu? Anche da adulti e finite come l'ex bambino ministro tedesco Gutenberg, oppure peggio ancora, finite a lavorare, che ne so, in una centrale nucleare, ma la tesi in fisica l'avevate copiata e scoppia tutto. Ecco, cosa avevo detto? Non credo che ci sia nessuno in quest'aula che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro. E ora, bambini, il sonnellino. Oggi il pisolino ci voleva. C'ho una stanchezza addosso, deve essere la primavera. Finalmente magari oggi si dorme. No, ma Drago, ma dormi già. Ma sì, ma lui è fatto così. Bambino al prosciutto, ci sei anche tu. No, è che al prosciutto. Non sono mica un panino, e neanche la pizza. Vabbè, ma dopo il live di ieri io sono tutto rotto. Com'è che tu stai così pimpante, stai tutto bene? Ma io sto benissimo. Ci credo. Sei un bambino, Io alla tua età non ero mai stanco, anzi. Sì, ma io ho il piede rotto, Vabbè, quindi? E quindi mi stanco di più che se avessi il piede sano. Ho capito, ma hai detto che non sei stanco, quindi cos'è? Infatti, non sono stanco che ho il piede rotto. Cioè, figurati se avessi il piede sano. Ah, beata fanciullezza. Vai, Gito, dai. Cos'è? Dai, il tre. Schiaccia il tre. Comincio. Dai. Cos'è sto casino? Drago, ti svegli? Mi sveglio. Bambino Alberto. Cosa c'è? Cosa sta succedendo qui? Io mi annoio, qualcosa devo pur fare, no? Allora faccio freestyle. Ma è il sonnellino adesso. Bambino Alberto. Senti un po', Gildo mette la base e io vado sopra. Adesso c'è Gildo alle basi, perché l'altra volta le basi erano un disastro. Dovevo sia freestyle, devo fare sia il freestyle che manovrare il touchpad. Questo Gildo è al touchpad e io vado col freestyle. Vai, fa sentire strano. Vai, ma cappa. Non ho sonno. Non ho sonno. Io sì. Non ho sonno. Non voglio dormire. Bello. Ma perché? Vai. Se non ho sonno. Sì, c'ho la metrica. Devo dormire. Attento alla metrica. Per forza. Anche perché? Sì. Metti che caso poi, che poi mi addormento. Ecco. Che allora dopo... La base... Che dopo magari sogno... E poi mi piccio addosso. Allora, ma Gildo! Ma allora! E sposta sta base! Ma Gildo non è che. No, che sbagliata! Ma come no? Sei tu che fai le metriche sbagliate, ma le metriche sono sbagliate. Sbagliate. È come l'altra volta. Allora. Tu arrivi a un certo punto che non sai più cosa dire. Allora. Cioè, tu cominci bene, però poi c'è quel momento in cui non sai più che cosa dire. È come l'altra volta, nel senso che voi ancora non avete capito cosa vuol dire freestyling. Allora, freestyling c'è la base, che deve essere la base giusta, no? Te la manda Gildo. E quella è la base, lo dice anche no, però. DJ Gildo. E Gildo manda la base, che se è giusta, io faccio freestyle, no? Quindi siete DJ Gildo e MC Alberto. Sì. Che sono i freestyle. Sì, però bisogna capire che lui mette le basi e basta, Sì. Che schiaccia il touchpad e basta. Esatto. Però schiaccia quelli sbagliati. Quindi sei tu il leader della band. Sì, per quello mi arrabbio, no? Perché se io sono il leader della band e sono quello che deve fare il freestyling, come minimo datemi una base che funziona. Vabbè, adesso però fai una metrica che stia dentro nel ritmo. Arriva Suor Dentone. Lascia stare. Dai, un po' di rap. Facciamo quello di prima, che stavolta. Perché dopo basta suonare che cambia, ecco. Allora vai. Vai. Questa c'è. Vai. Fermo così che andiamo in fondo. Vai. Non ho sonno. Di nuovo, ma sempre questa. Ma non sai cosa dire dopo. Vabbè. Dobbiamo dormire. Già qui comincia a perdere conto. Perché? Perché? Se non ho sonno. Qui va bene. Io devo. Dormire. Bravo. Anche perché? Se poi magari che mi addormento, che faccio un sogno strano. Ma allora, Occhio, bambino Alberto. Cosa c'è? Aia! Te l'avevo detto no. Vabbè, qui è colpa di Gildo con il touchpad. Il touchpad. Polemica sul cerotto che ha esibito il bambino premier la settimana scorsa. Cos'è un cerotto? Fai la polemica sul cerotto adesso? In effetti la polemica è un po' oziosa, ma è allora un simbolo dell'infantilismo di questo paese. Dai, da sinistra si sono levate voci tipo: se Berlusconi si è fatto operare in bocca, come mai porta un cerotto sulla guancia? È la domanda più importante di tutte queste, quella che la sinistra si deve fare. Perché al cerotto se si è fatto operare il dente? Se vuoi ti do una risposta io. Secondo me Berlusconi ha voluto rendere evidente, proprio super evidente, che si era fatto operare, quindi si è messo quel cerottone fumettistico tipo quelli di Topolino, no? Però tutto questo fa proprio parte del berlusconismo. La realtà diventa fumetto e diventando fumetto diventa iperrealtà, capito? No. La realtà vera non viene più percepita come vera, anzi viene percepita un po' come sfocata, sfigata, inefficace, no? Quello che fa davvero colpo, che comunica, che si fa capire, è l'iperrealtà, cioè un'esagerazione fumettistica della realtà. E il premier ha sempre fatto il verso ai fumetti, no? Dal pirata vestito di bianco con la bandana al recente cerottone. Scusa se interrompo il ragionamento. Qual era il fumetto col pirata vestito di bianco e la bandana, scusa? E ora una quartina che arriva dalla bambina Manuela, che racconta una mattina tipica di quelle delle sue. Vai. Miagola il gatto, miau. Piange la bambina. Mamma, cozzo col compagno, che schifo di mattina. Oh yeah, chiedo asilo. Cozzo col compagno. Cozzo col compagno, sì, un italiano un po' così da immaginare, forse. No, forse un refuso. Un refuso, sì. Forse facciamo. Trifo, miagola il gatto, piange la bambina. Cozzo col compagno, che schifo di mattina.